Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Adesso ci sono anche tante orme di dinosauri italiani, ne parliamo fra poco. Benvenuti e benvenute a Mebius, ascoltiamo i titoli di questa puntata. Rinvenute in Trentino alcune orme di rettili preistorici datate 242 milioni di anni. Appartengono ai predecessori dei dinosauri italiani. Un ecoscandaglio ad altissima risoluzione ha studiato il fondale del lago di Garda. È servito per monitorare la sismicità dell'area. Ma chi vive nelle profondità lacustri? Lunedì torna Voyager, una trasmissione sulla cui scientificità Mebius ha qualcosa da dirvi. A 4.300 metri di altezza in Tibet c'è Argo, un osservatorio per raggi cosmici frutto di una collaborazione di ricerca italiana e cinese. Lassù è nato anche un libro. Ma insomma, questi dinosauri italiani esistono o non esistono? Cioè c'erano o non c'erano? La questione è controversa, ma in realtà penso che sia spiegabile. E per farlo mi servirò dell'aiuto di Marco Avanzini. Buonasera Avanzini. Buonasera a voi. Ricercatore del Museo di Scienze Naturali di Trento, e voi siete anche arrivati a un risultato molto interessante recentissimo che riguarda i dinosauri italiani, anzi pre-dinosauri italiani, poi vediamo subito di che si tratta, però voglio utilizzare le sue competenze per capire un po' questa cosa. Sappiamo che negli Stati Uniti, nelle zone centrali, dove ci sono anche grandi deserti, ci sono resti di dinosauri, anche la Cina ha un sacco di reperti, poi c'è l'Argentina. E qui da noi, in Europa, e in particolare quello che ci interessa in Italia, si hanno resti di questi grandi animali o no? Sicuramente sì, l'Europa è un territorio relativamente ricco in resti di dinosauri, siano essi resti scheletrici, ossa, ma con anche abbondanza di giacimenti, ma soprattutto orme. Le tracce quindi fossilizzate di questi animali sono distribuite in tutta Europa e in buon numero anche nei territori italiani. Le orme, lei dice però? Sì, le orme, stranamente, noi pensiamo all'orma come un qualcosa di molto effimero, che ha poco potere e poca possibilità di conservarsi lo stato fossile. In realtà le orme sono molto più abbondanti degli scheletri. In Italia abbiamo anche scheletri di dinosauro, ma le orme sicuramente sono molto più abbondanti. Ma perché i giacimenti proprio invece di scheletri è più difficile trovarli, per esempio qui da noi? Ma questo è essenzialmente legato alle condizioni geografiche e morfologiche dell'Italia, ovvero di quei territori che rappresentavano al tempo dei dinosauri l'attuale penisola. Perché possono conservarsi gli scheletri ci vogliono condizioni molto particolari, lo scheletro deve essere sepolto velocemente, deve essere quindi protetto dagli agenti atmosferici, ma anche da semplicemente gli animali che potevano divorarne parti o trasportarle e disperderle. E queste sono condizioni un po' difficili e che nelle lagune, nelle piccole isole che costellavano l'Italia nel Mesozoico, cioè il tempo in cui questi grandi rettili dominavano il nostro pianeta, non erano facili da trovare. Quindi era per come era fatto il nostro territorio allora. Sì, che fa sì. Questo è uno dei primi motivi. Sicuramente questo è uno dei motivi principali, ma anche la storia successiva, cioè l'orogenesi alpina e appenninica, che hanno corrugato fortemente quelle antiche rocce sollevandole in alto fino a 2-3 mila metri della catena alpina, hanno fatto in modo che quegli strati venissero in qualche modo disordinati e sepolti e poi piegati, nascondendoci molte delle tracce che si conservano. Senta Avanzini, allora che cosa sono queste orme che voi avete recentissimamente trovato di animali che erano gli antesignani dei dinosauri, i predinosauri? Sì, quello che abbiamo trovato ci fa andare indietro un tempo molto lontano, a circa 240 milioni di anni fa, quindi almeno una ventina di anni, di milioni, scusate, di anni prima di quella che è universalmente riconosciuta come l'età di inizio dell'epoca dei dinosauri. Sono quindi animali molto piccoli, strani, poco conosciuti. Abbiamo trovato le tracce, le orme fossilizzate di un buon numero di questi rettili, nei quali sono presenti alcuni gruppi importanti che poi si evolveranno nella nostra storia: i rappresentanti delle prime lucertole, ma anche i rappresentanti di quelli che diventeranno i coccodrilli, e la cosa interessante, come diceva lei, i rappresentanti di quelli che diventeranno dinosauri. E dico subito a chi ci ascolta che sul nostro sito abbiamo delle immagini che voi ci avete mandato e che sono ricostruzioni a partire dalle orme. Può sembrare strano, ma invece è possibile, no? Riuscire a ricostruire quella che poteva essere, non dico al 100%, ma verosimilmente la struttura di un corpo. Certo, le orme ci danno moltissime informazioni. La prima cosa che riusciamo a trarne è sicuramente l'autore dell'orma stessa, quindi la forma dell'animale, la forma degli arti e quindi tutti gli animali che l'hanno lasciata, ma soprattutto le orme ci danno informazioni sul comportamento degli animali, cioè informazioni che dagli scheletri non riusciamo a trarre, se questi potevano correre, se vivevano in gruppo, se avevano quindi dei comportamenti sociali, come si spostavano, se erano feriti, se camminavano lentamente, se i cuccioli e gli adulti vivevano nello stesso ambiente, se c'erano dei comportamenti di branco per cui gli animali grossi si muovevano in gruppo proteggendo all'interno i piccoli. Cioè tutta una serie di informazioni estremamente interessanti che in qualche modo ci permettono di rendere vivi realmente questi animali. Certo, sì, fantastico, ma d'altronde diciamo è quello che fa la polizia scientifica con le orme sui luoghi del delitto, no? Si riesce a ricostruire un sacco di cose. Voi fate queste indagini poliziesche di casi di 240 milioni di anni fa. Senta, quando lei dice piccoli animali, che dimensioni avevano questi predinosauri? Ma quelli dei quali noi abbiamo trovato traccia e sui quali stiamo lavorando erano animali che non superavano il paio di metri di lunghezza. Dobbiamo immaginarci più grandi come dei coccodrilli piuttosto magrolini, con gli arti però eretti, quindi verticali sotto il corpo, e quindi con la possibilità di movimento sicuramente molto maggiore rispetto a quella dei coccodrilli attuali. Erano dei predatori che riuscivano a muoversi molto bene e riuscivano anche a predare, quindi a cacciare i piccoli dinosauri che ancora non lo erano, cioè che stavano facendo delle prove per evolversi in dinosauri e che poi insomma nei milioni di anni successivi invece sarebbero diventati sicuramente i gruppi dominanti. Quindi i più grandi erano dei rettili simili ai coccodrilli, quelli di cui stavamo parlando prima, cioè i rappresentanti, questi nonni, i bisnonni di questi dinosauri, erano rettili non più lunghi di una trentina di centimetri, 30-40 centimetri, del peso di poche decine di grammi, si arrivava forse a un chilo nei casi degli animali più grandi. Quindi un mondo in miniatura da un certo punto di vista, molto diverso dal mondo dei dinosauri che siamo abituati a conoscere attraverso le pubblicazioni o i film classici sul Giurassico, il Cretacico, cioè le epoche più tipiche per la vita di questi grandi animali. Grazie Avanzini e buona caccia a nuove orme. Grazie a voi. Sentite questo coro? Ascoltiamolo ancora un po'. Da quante persone è composto? Ovvero, da quante voci? Beh, si ha la sensazione che non siano poche. In effetti, i cori numerosi compaiono in molte performance musicali, in certe grandi opere, l'Aida, per esempio. Qui però state ascoltando, sentiamo ancora, state ascoltando 165 persone. Sono un po' tante per un coro, no? 165 è una cifra decisamente fuori standard. Se oltre alla musica vi fosse possibile vedere il video che la accompagna, ecco, ve lo descrivo. C'è un signore, il direttore del coro, Eric Whittickery, è un direttore di cori statunitense, piuttosto famoso fra l'altro, e questo signore lo vediamo in un grande spazio vuoto e scuro, da solo. Dietro di lui c'è un grande schermo, grande quanto quei film che si vedono nei parchi giochi come Disneyland, ma anche Gardaland. E questo filmato è fatto tutto di piccoli schermi quadrati, uno di fianco all'altro, una grande scacchiera, insomma. E in ogni schermo appare il volto di un corista o di una corista che canta con un proprio spartito e canta la propria parte. Quanti sono i coristi e le coriste? Eccoci qua, sono 165, ma non si sono mai visti insieme. Infatti questo è il coro più internazionale di tutti i tempi. I suoi componenti si trovano in Austria, Argentina, Canada, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Spagna, Svezia, Inghilterra, Stati Uniti. Eric Whittickery ha cercato su Facebook e ha selezionato attraverso Facebook 165 coristi, ha spedito loro la partitura e ha ricevuto le esecuzioni. Poi ha messo insieme tutto e il risultato, eccolo qua, è il più grande coro che non c'è nella storia della musica. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La domanda del gioco di oggi è solare. Siete pronti? Arriva il nostro quiz. Eccolo qua. Qual è il pianeta del sistema solare che gira più lentamente intorno al Sole? Prima risposta è Mercurio, che è il più vicino al Sole. Scriverete Mercurio. La seconda possibilità. La domanda non è corretta. Tutti i pianeti girano alla stessa velocità intorno al Sole. Ci scriverete tutti. Terza e ultima possibilità è Nettuno, il più lontano. E scriverete Nettuno. Dove? E l'SMS è sempre lo stesso, 349-238-6666. Il libro in premio questa settimana è In Tibet, tra uomini e dei, di Silvia Vernetto, edizioni Lindau. In collaborazione con IBS.it. Molti laghi sono profondi. Come sono i loro fondali e che fauna si muove laggiù? Ve ne parla Chiara Albicocco. Hanno scandagliato per una settimana il fondale del lago di Garda e disponevano di strumenti tecnologicamente avanzati e avevano anche il compito di studiare la sismicità dell'area. Loro sono un gruppo di scienziati italiani appartenenti a diversi enti di ricerca, il CNR, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e anche l'Università dell'Insubria. Tra questi ricercatori c'era anche Crescenzo Violante dell'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR di Napoli e stasera ci racconta che tipo di dati hanno raccolto. Buonasera Violante. Buonasera. Allora, ci deve raccontare che tipo di studio avete fatto in quella settimana di studio lì sul lago di Garda? Innanzitutto abbiamo scandagliato un'area compresa tra la punta di San Vigilio e il cavo Sirmione. Sì, ecco, non tutto il lago di Garda, sarebbe stato un po' troppo. Sì, abbiamo fatto questo studio preliminare, anche se l'obiettivo poi è quello di magari di scandagliare l'intero lago, perché sarebbe, diciamo, importante. L'obiettivo principale di questi studi era raccogliere dei dati batimetrici ad elevata risoluzione per poter valutare il grado di sismicità presente nella regione Lombardia, in effetti. I dati raccolti sono in effetti dei dati batimetrici ad altissima risoluzione. Perché avevate in effetti delle tecnologie piuttosto avanzate, un ecoscandaglio ad altissima risoluzione. Sì, un ecoscandaglio multifascio che viene installato a Chiglia su un natante. In particolare noi abbiamo usato dei mezzi in dotazione alla Guardia Costiera del Lago di Garda, e in effetti tramite degli impulsi acustici è possibile con questa strumentazione avere una restituzione del fondo del lago molto elevata, tale da poterla restituire e studiare anche in tre dimensioni. Questo ci dà una serie di informazioni soprattutto sull'attuale assetto morfologico e geomorfologico dell'area indagata. Di che profondità stiamo parlando? Dunque, le profondità indagate vanno dal circa 3 metri, meno 3 metri, quindi fino a vicino circa, diciamo, alla costa, sulla sì, zona di alla costa. Costa e anche diciamo in dei punti che corrispondono a delle secche praticamente. Sì. Fino a una profondità di circa 250 metri. Mm. Infatti nell'area di studio è presente una vera e propria dorsale che collega i due capi e che è limitata da un lato praticamente da una scarpata morfologica che in pratica mette in collegamento settori di fondali che si trovano a circa 20-30 metri fino a una profondità di circa 150-200 metri. E questo grosso salto che in effetti dovrebbe corrispondere a uno delle principali discontinuità tettoniche presenti nell'area e rilevabili anche nelle aree emerse, nelle adiacenti aree emerse. E quindi un'area ad alta, diciamo, sismicità, se vogliamo dire così. L'area lombarda in effetti è considerata tra virgolette a bassa sismicità e anche se diciamo proprio lungo queste direttrici in effetti morfologiche sono stati già rilevati a terra, uh-huh, indizi di terremoti recenti che con i nostri studi volevamo confermare anche nel fondo del lago. Sì, perché poi è una zona abbastanza attiva soprattutto dal punto di vista geotermico, no? Conosciamo ad esempio le terme di Sirmione e sappiamo che insomma lì sotto c'è qualcosa che si muove. Certo, infatti noi abbiamo trovato delle strutture particolari che si chiamano in gergo tecnico pockmark, in realtà sono delle depressioni emisferiche che stanno sul fondo del lago. Dei buchi. Dei buchi veri e propri, diciamo, con diversa diciamo grandezza e profondità, la cui origine è appunto da mettere in relazione appunto a questa risalita di fluidi di fluidi termali di cui l'area è ricca. Appunto lei citava la vicina penisola di Sirmione che è un'area termale diciamo per eccellenza. Mm-hmm. Quindi evidenze di quel fenomeno sono presenti anche lungo il fondo del lago. Quindi voi insomma adesso avete una scansione, una sorta di modello di quello che è il fondale di questo lago, e da questi dati che avete raccolto, che ovviamente immaginiamo che per un geologo siano preziosissimi, che tipo di applicazioni poi possiamo ottenere? Dunque sì, lei dice bene, abbiamo un modello digitale del fondo del lago, un DTM, ed è ad alta risoluzione, e questo modello digitale del terreno ha permesso di individuare una serie di strutture morfologiche e geomorfologiche in base alle quali si possono programmare dei futuri studi e approfondimenti per valutare in primis l'obiettivo principale dello studio, che è la, diciamo, l'hazard e la pericolosità sismica nell'area. Ma se diciamo come noi programmiamo questi studi vengono allargati a tutto il fondo del lago, a gran parte del fondo delle lacustre, oltre a questi studi mirati alla valutazione della sismicità e della paleosismicità in quell'area, i dati raccolti possono dare informazioni importanti e possono essere utilizzati per una vera e propria gestione del demanio lacuale, diciamo così. Quando sì, dico questo, dico che per esempio possono essere utilizzati ad esempio per varie applicazioni, come penso ad esempio alla delimitazione, alla caratterizzazione di aree portuali o alla diciamo sì, per la costruzione ad esempio di alcune infrastrutture potrebbe essere, infrastrutture, no? In generale, sì, oppure per l'individuazione di aree archeologiche sommerse, oppure anche per il turismo, la creazione di percorsi subacquei particolarmente belli per esempio, oppure una cosa importante anche per l'impatto antropico che si ha sui fondali, cioè sulla valutazione dell'impatto dell'attività umana, diciamo così, lungo i fondali. Va bene, allora buon lavoro professore. La ringrazio, a lei. Grazie. Abbiamo parlato di geologia e della sismicità legata ai laghi. Ora vogliamo continuare a approfondire un po' l'argomento su quello che è il discorso della fauna, soprattutto quegli animali che vivono sui fondali lacustri. dinosauri, di cui poco si sa. Ne parliamo con Angela Boggero, che è ricercatrice dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Pallanza, sempre del CNR. Buonasera Boggero. Buonasera. Allora, i fondali sono solitamente abitati da un gruppo che viene definito benthos, in quanto abita per l'appunto il fondo dei laghi. Sono organismi diversi, molto diversi anche fra loro, vanno per esempio dai molluschi, quindi le conchiglie come uno le può trovare anche lungo le rive del mare, a vermi oligocheti, a larve acquatiche di insetti, e possono abitare sia lungo le coste di un lago che raggiungere fin le profondità più elevate dei bacini lacustri. Voglio dire che li troviamo fino a profondità superiori ai 100 metri, quindi anche in aree non toccate dalla luce del sole. E quindi tra le piccole dimensioni diciamo che possiamo fare un raffronto con quelli che sono gli animali bentonici marini, quindi conchiglie, molluschi, crostacei, piccoli gamberetti. Diciamo che rispetto alla fauna del mare sono organismi solitamente più piccoli, visibili sempre ad occhio nudo, ma comunque più piccoli. Ecco, invece di animali di grosse dimensioni, voglio dire dei pesci che vivono a quelle profondità, ne esistono? Così in profondità no, stanno in zona pelagica ma in zona più superficiale, diciamo, ecco, non arrivano a sprofondarsi fino a questi livelli, anche perché spesso i grandi laghi italiani, che sono molto profondi, soffrono di periodi di scarsa ossigenazione lungo il fondo, quindi i pesci fanno fatica, diciamo, a vivere in queste condizioni. Gli organismi che studio io, invece, vivendo infossati nel sedimento, riescono ad entrare in contatto con il poco ossigeno che resta intrappolato fra le particelle del sedimento stesso. Io mi sono un pochino informata e ho visto che ad esempio i pesci carpione, che sono dei salmonidi, piuttosto che i pesci siluro, riescono a raggiungere queste profondità un pochino più elevate, sui 100-150 metri, appunto utilizzando queste riserve di ossigeno, ma poi devono tornare in superficie, insomma. Sì, per recuperare l'ossigeno di cui hanno bisogno, sì. Scusi, ma tutte le leggende legate alle profondità dei laghi, ad esempio i grandi giganti come Nessie, il mostro del lago di Loch Ness, i plesiosauri e così via, non vivevano a profondità così elevate? Ma dunque, visto che sono leggende, direi che uno le può far vivere a qualsiasi profondità. No, ha ragione, stavo scherzando, infatti non ci sono prove scientifiche, lo diciamo, no, sull'esistenza di Nessie e di tutti gli altri mostri. C'è un qualcosa di vero sul fatto che alle grandi profondità, sia marine che lacustri, le dimensioni degli organismi sono superiori a quelle che uno potrebbe riscontrare nelle stessi gruppi, nelle stesse famiglie, lungo le coste di un lago. Questo perché per un rallentamento del metabolismo dovuto alle più basse temperature, che fanno sì che quindi la crescita venga prolungata nel tempo, vengono prolungati anche tutti quelli che sono i tempi riproduttivi di fecondazione degli organismi, insomma hanno più tempo per accrescersi e quindi hanno dimensioni maggiori. Voglio dire, una volta che sono stata con dei colleghi in Islanda, con dei sub, abbiamo trovato il corrispettivo, diciamo, della nostra cozza che raggiungeva dimensioni di 15-20 centimetri di lunghezza. Un cozzone? Quindi, sì, infatti ben superiori alle dimensioni delle cozze che si trovano normalmente in Mediterraneo. Perché... peraltro decisamente meno gustose. Ecco, oltretutto. Adesso abbiamo fatto riferimento ad esempio al lago di Garda, che raggiunge delle depressioni anche di 300 e passa metri, però esistono dei laghi che sono molto molto molto più profondi. Ad esempio ho studiato il lago Baikal, che è in Siberia, giusto? Baikal è profondo, raggiunge una profondità massima di 1620 metri. Sì. Ci sono organismi adesso fino a quelle profondità, non so se riescano a sopravvivere, però senz'altro nelle profondità dei nostri laghi esistono organismi che riescono a sopravvivere, sia ad adattarsi alle basse condizioni di temperatura, alla scarsità di ossigeno e alle diverse condizioni saline, perché producono delle sostanze tipo una specie di emoglobina, in modo che hanno questa colorazione fortemente rossa, e l'emoglobina, come sappiamo, già nel nostro sangue favorisce il trasporto dell'ossigeno. Certo. E all'interno dell'emoglobina l'ossigeno può venire trattenuto e conservato per un certo periodo di tempo. In più passano dei periodi che vengono definiti di dormienza, una sorta di letargo, anche se non è un vero e proprio letargo, perché con la dormienza viene rallentato solo il metabolismo, aspettando condizioni chimico-fisiche migliori. Mm-hmm. E se no attuano tutta una serie di stratagemmi per riuscire a raggiungere quel sottile strato d'acqua leggermente più elevato rispetto al sedimento di fondo, che fa sì che abbia quel millesimo di grammo in più di ossigeno che permette loro di sopravvivere. D'accordo, professoressa. Allora, se ci dovessero essere nuove scoperte, se nei vostri numerosissimi campionamenti dovreste trovare qualche animalone consistente, tipo mostro di Loch Ness o così, ci chiami. Senz'altro, sarà grazie. Mia premura tenervi informati. Buon lavoro, davvero. Grazie a lei, arrivederci, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cos'è Argo, che sta a 4.300 metri di altezza sulle montagne tibetane? Ve lo spiega Barbara Gallavotti. A 4.300 metri di altezza, in Tibet, si trova Argo, l'osservatorio di raggi cosmici frutto di una collaborazione fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e centri di ricerca cinesi. Fra i ricercatori che fanno la spola fra il nostro paese e le vertiginose montagne tibetane c'è Silvia Vernetto, una fisica torinese che, oltre a seguire la sua attività di ricerca, ha anche volto lo sguardo al Tibet antico e ricco di storia e ai suoi abitanti. Così è nato un libro, In Tibet, tra uomini e dei, edito da Lindau. Buonasera Silvia Vernetto. Buonasera. La prima domanda ovviamente è: perché un osservatorio a oltre 4.000 metri di altezza? Ecco, innanzitutto andiamo a 4.000 metri di altezza per avere meno atmosfera sulla nostra testa. Questo perché le ricerche che facciamo lì riguardano l'astronomia gamma. L'astronomia gamma è una branca dell'astronomia che studia la radiazione gamma. La radiazione gamma non è altro che una specie di, diciamo, di luce molto più energetica che viene emessa da particolari corpi celesti, particolari galassie, particolari stelle. E questa radiazione gamma, quando arriva nell'atmosfera, viene assorbita e non arriva al suolo. E occorre studiare le particelle che questa radiazione gamma genera nell'atmosfera, ma per questo occorre andare il più in alto possibile per avere meno atmosfera sulla testa, per questo che andiamo a 4.300 metri. Un'altezza a cui fra l'altro non è molto confortevole lavorare. No, non è confortevole lavorare, l'ossigeno è poco e tutto è più faticoso, è più difficile, sia dal punto di vista fisico che anche proprio intellettivo. Comunque dopo un po' ci si abitua, insomma. La ricerca di frontiera, certo, con la tradizione tibetana sembra entrare proprio poco. Esiste una sorta di incontro ad Argo fra questi due mondi totalmente diversi? No, purtroppo non esiste. Il nostro esperimento è lì come un'astronave capitata su un pianeta diverso e per incontrare il mondo tibetano occorre uscire dal laboratorio, chiudersi la porta alle spalle e andarsene in giro per i villaggi. Però almeno il panorama straordinario del Tibet dal laboratorio avrete modo di apprezzarlo. Quello senz'altro. Abbiamo vicino a noi una catena montuosa che arriva a più di 7.000 metri, che è stupenda. E intorno siamo circondati da montagne, un classico paesaggio tibetano spoglio, luminoso e un po' lunare, comunque bellissimo. E invece entrando nei villaggi, che cos'è che colpisce una persona che tutto sommato, appunto come dice lei, viene da un altro pianeta? Colpisce innanzitutto la povertà di questi villaggi, il modo di vita molto rustico e appunto molto, molto povero, ma colpisce soprattutto la simpatia della gente che vi abita, la simpatia dei tibetani, la loro ospitabilità, il calore, il buon umore. I tibetani sorridono tantissimo nonostante tutte le cose brutte che hanno vissuto in passato e anche che continuano a vivere tuttora. Ecco, Argo è un esperimento che tutto sommato è attivo da diversi anni. Voi avete percepito dei cambiamenti dopo le ultime vicende che hanno toccato il Tibet in relazione al conflitto con la Cina? Beh, senz'altro dopo la rivolta del 2008 la situazione è cambiata. Lhasa è la capitale del Tibet, è piena di militari, ancora io sono stata l'ultima volta lì a dicembre, nel dicembre scorso del 2009, ancora c'erano tantissimi militari, posti di blocco, no, la situazione è molto più tesa di prima. Voi come scienziati ne risentite? No, abbiamo sempre, ne risentiamo nel senso che abbiamo spesso delle difficoltà a ottenere il visto per entrare in Tibet, ci sono sempre un po' di problemi così burocratici che sono appunto legati a questa situazione politica. Comunque alla fine non abbiamo molti problemi noi. Quanti anni andrà ancora avanti l'esperimento? Ma l'esperimento andrà sicuramente ancora avanti 2 anni, poi forse verrà ampliato il laboratorio, verrà costruito un esperimento molto più grande, però questo è in prospettiva, ancora non si sa di sicuro cosa succederà. E il prossimo rientro in Tibet quando è? Penso in autunno, sì, in autunno. Alcuni miei colleghi stanno già per partire adesso ad aprile, ma io andrò solamente in autunno. Ma in genere andiamo una volta all'anno o 2 volte all'anno. Questo tipo di esperimenti richiedono molti dati, cioè prendere dati per molti anni prima di avere dei risultati significativi. E comunque noi abbiamo già avuto alcuni risultati, abbiamo già pubblicato, ma occorrono ancora alcuni anni di presa dati prima di avere dei risultati veramente interessanti. Bene, allora ci sentiremo in occasione di queste nuove pubblicazioni. Va bene, benissimo. Grazie Silvia Vernetto, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Lunedì prossimo ritorna in onda su Rai 2 Voyager. È una trasmissione nella quale si parla di scienza. E secondo noi lo si fa male, pericolosamente male. Vi proponiamo di capire perché le cose stanno così, con una sequenza di esempi e con l'aiuto in studio di Stefano Morigi, filosofo della scienza, e Chiara Ceci, naturalista ed esperta nel campo della comunicazione scientifica, insieme ad altri ospiti che man mano vi presenteremo. Partiamo adesso da un tipico inizio di una puntata di Voyager. Una mappa spaventosa del futuro, un'antica profezia che starebbe per compiersi, la fine del mondo per come lo conosciamo. Cosa c'è di vero nella leggenda del 2012? Perché si moltiplicano i libri, i film e le teorie a riguardo? Cosa succederà esattamente il 21 dicembre del 2012? Come mai profezie di popoli lontani sembrano tutte indicare questa data come la possibile fine del tempo? Cosa afferma il calendario vecchio di 5.000 anni del popolo Maya? Cosa dicono a riguardo i racconti degli indiani d'America? Quale segreto è inciso sulle mura dell'antico tempio di Angkor Wat, in Cambogia? Chi sono i misteriosi bambini indaco? Qual è la verità sulla leggenda dei teschi di cristallo? Cosa indica l'allineamento del mitico complesso di Tiahuanaco in Bolivia? Cosa è scritto nel libro dei morti egiziani? Quale antica conoscenza stellare possedeva il popolo africano dei Dogon? Qual è la possibile interpretazione delle centurie di Nostradamus? E come mai l'incredibile profezia di San Malachia sembra affermare che quello attuale sarà l'ultimo papa? Ci sono testimoni da ascoltare, prove da esaminare e ipotesi da valutare. E tutto ciò che deve essere visto sarà mostrato. A Voyager. Adesso. Osservando le varie puntate di Voyager vediamo quindi una costante narrativa: la prevalenza della suggestione sull'argomentazione e sull'evidenza di dati sperimentali. Questa strategia peraltro viene declinata in molti modi. Ovviamente tra il popolo dei Dogon e i bambini indaco, tra Nostradamus e Angkor Wat, tra il calendario Maya e le profezie di Malachia sull'ultimo papa non c'è alcuna connessione evidente, ma il tutto concorre a creare suggestione, nel caso specifico a quel che accadrà o accadrebbe attorno al 2012. C'è poi l'ingiustificata ricorrenza al termine profezia in contesti inadeguati. Spesso infatti questo termine viene associato alla parola coincidenza e queste presunte coincidenze vanno ad aprire squarci nella storia e nella scienza. E una volta spalancata la porta sul mistero non si torna più indietro perché nulla è più controllabile. Nella trasmissione infatti si fa continuamente riferimento a esperimenti di cui però poi non si ha notizia davvero. Ma non è tutto. Facciamo anche un esempio in cui addirittura le coincidenze si sommano alle domande. Cosa succederà esattamente il 21 dicembre del 2012? perché si moltiplicano i libri, i film e le teorie a riguardo. Nessuna implicazione logica, nessun dato sperimentale può rintracciarsi a sostegno di queste due proposizioni e del loro legame, ma producono una suggestiva attesa. La soluzione all'enigma è sempre rimandato a fine trasmissione, ma non arriva mai. Falso, vero o limitato che sia. Un caso emblematico trattato da Voyager è quello dei bambini indaco. Galattici, un nome che sa di fantascienza. Secondo i ricercatori che abbiamo ascoltato, sarebbero una nuova razza che abiterà il nostro pianeta. Una storia realmente fantastica, ma non è tutto. Esiste una coincidenza sorprendente. C'è infatti chi pensa che una nuova razza sulla Terra già esista, una razza umana. Secondo alcuni studiosi, da circa 20 anni si registrerebbero delle nascite di bambini particolari, esseri umani che una volta adulti sarebbero chiamati a cambiare il destino dell'umanità. Li chiamano i bambini indaco. Una nuova razza nata in previsione dei cambiamenti epocali che avverrebbero nel 2012, con capacità psichiche molto al di sopra di quelle considerate normali e un aspetto quasi regale. I bambini indaco avrebbero quindi capacità psichiche superiori alla norma. Ma qualcuno le ha misurate? Ci sono dati sperimentali? In trasmissione non se ne parla. Si parla di persone con spiccate capacità sensoriali. C'è qualche esperimento che lo dimostra? In trasmissione non se ne parla. Si allude a un campo energetico che, secondo la tradizione spirituale, circonderebbe i bambini indaco. Come è stato misurato? In trasmissione non se ne parla. E quale rilevanza avrebbe, dal punto di vista scientifico, la tradizione spirituale? Non ci è dato sapere. E ad un certo punto, in onda, appare una giornalista, Paola Giovetti, che afferma: io penso che i bambini indaco possano essere la chiave per un passaggio evolutivo. Loro stessi dimostrano di aver compiuto un salto evolutivo rispetto alla generazione precedente. Un salto evolutivo in una generazione? Qualsiasi cosa si intenda per salto evolutivo, questa affermazione è scientificamente priva di senso. Voyager a questo punto intervista Giuseppe Novelli, stimato e bravo genetista italiano. Come tutti i fenomeni, la scienza deve ovviamente con attenzione valutare ogni osservazione. Io direi che per quanto riguarda i bambini indaco, come oggi sono percepiti dal punto di vista del New Age o dal punto di vista dell'area cosiddetta psicologica, non esistono come tale. Dunque i bambini indaco non esistono. Non è detto. La scienza in Voyager non ha mai l'ultima parola e infatti... È comunque indubbio che i bambini indaco hanno molte capacità fuori dal comune. Per questo, secondo alcuni, sarebbero i precursori di una nuova e migliore umanità. Ma non si era detto che non esistevano? Certo, ma ascoltiamo come la trasmissione risolve il problema. Falso, vero o limitato che sia, il fenomeno dei bambini indaco ci spinge comunque a riflettere su due cose molto importanti. Il percorso evolutivo che sta compiendo l'umanità e il grado di attenzione che dovremmo rivolgere ai nostri figli. Falso, vero o limitato che sia? Ma che vuol dire? 2500 anni di logica gettata alle ortiche. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Lasciamo i bambini indaco e analizziamo altri casi trattati da Voyager. Cominciamo dalla statua su Marte. Una statua su Marte, una figura dalle sembianze femminili, che emerge dalle sabbie del pianeta rosso. Un'immagine inspiegabile, che ha fatto il giro del mondo, riaprendo il dibattito sulla possibile presenza di una civiltà aliena su Marte. Alcuni appassionati di astronomia, analizzando un'immagine autentica scattata dalla sonda americana Spirit a fine 2007, hanno trovato un particolare che non dovrebbe esserci. L'opinione di Andrea Bernagozzi, fisico dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Che cosa si può dire su questa vicenda della statuetta votiva in un panorama marziano? Si potrebbero dire tante cose, si potrebbe parlare di come il punto di vista, la ripresa fatta dalla sonda sulla superficie marziana, ovviamente può suggerire suggestioni, può suggerire illusioni, ma io non vorrei parlare di questi aspetti, io vorrei far notare due cose che secondo me sono veramente determinanti e che sono decisamente più importanti di spiegare come quella roccia, vista da qualsiasi altro punto di vista, non assomiglia assolutamente a una statua, ammesso che già nelle immagini che vediamo possa somigliare a una statua, dove i marziani ipotetici vanno in pellegrinaggio. Quello che vorrei ricordare è che stiamo vedendo un panorama marziano ripreso da una sonda che l'umanità, grazie alla sua curiosità, è riuscita a mandare su un mondo alieno. E a noi questa cosa sembra così normale che andiamo a vedere particolari che dovrebbero passare assolutamente in secondo piano rispetto a quello che è la grande cornice. Siamo in grado di esplorare un altro mondo con i nostri mezzi. Non possiamo andarci lì fisicamente per ora, non ci sono astronauti su Marte, ma andiamo una sonda al posto nostro e stiamo vedendo il panorama di un altro mondo. E la seconda cosa da ricordare è che lo stiamo vedendo a casa nostra, perché grazie alla rete chiunque può avere a casa propria le immagini da Marte, da Saturno, immagini di galassie lontane. Senza uscire di casa possiamo esplorare il cosmo e vogliamo perderci a inseguire illusioni quando abbiamo un cosmo pieno di veri misteri e di vere domande che attendono risposta a disposizione a casa nostra, grazie alla scienza, alla tecnologia, ma soprattutto alla curiosità dell'essere umano. Da Marte torniamo sulla Terra e Voyager però ci riporta nello spazio perché ci parla di reperti che dimostrerebbero collegamenti fra noi e gli extraterrestri. Sono collezioni private o addirittura reperti che arrivano da musei pubblici. Sono particolari e sembrano mettere in difficoltà o in crisi le scienze ufficiali legate all'archeologia e alla paleontologia. Hanno un filo comune. Sembrano tutti dimostrare l'esistenza di una civiltà antichissima, precedente alla nostra preistoria o addirittura che l'abbiano accompagnata. Questi reperti, secondo gli organizzatori, potrebbero obbligarci a rivedere le nostre convinzioni circa l'evoluzione addirittura della vita umana. Ascoltiamo Telmo Pievani, filosofo della scienza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Queste affermazioni così altisonanti, così sensazionali sulla riscrittura dell'intera evoluzione della vita umana sono a mio avviso un tipico esempio di quell'ambiguità del linguaggio che caratterizzano questo tipo di comunicazione, diciamo, pseudoscientifica o esoterica, perché spesso si fa riferimento ad ipotesi inutili, nel senso che esistono già spiegazioni esistenti molto più semplici e molto più corroborate. Quando si fa riferimento a caschi spaziali o ad alianti o aerei o tecnologie molto sofisticate, si rimuove automaticamente l'ipotesi più plausibile, cioè che queste popolazioni antiche, come già sappiamo da tante altre evidenze, avevano delle grandissime capacità di osservazione naturalistica e quindi avevano osservato le modalità di volo degli uccelli e le simulavano nei loro artefatti, come abbiamo visto in tante culture. Quindi queste ipotesi fantasiose, descritte come se fossero ipotesi scientifiche sul campo, quindi realmente dibattute, secondo me sono un modo molto confusivo e distorto di rappresentare la scienza, perché in un geroglifico con un po' di fantasia si può leggere di tutto e adombrare ipotesi basate su similitudini o questo continuo richiamo alle coincidenze sembra sollevare delle controversie scientifiche che in realtà sono inesistenti perché non rispettano un principio molto semplice, che è quello dello stato dell'arte di una disciplina, che è costruito in modo serio, rigoroso negli anni e che rappresenta la letteratura di riferimento da cui far partire poi analisi e discussioni. E poi un ultimo spunto mi ha colpito molto, è che un aggettivo, queste coincidenze sono definite affascinanti e questi temi vengono sempre autodefiniti come suggestivi e affascinanti. Io trovo invece che siano molto noiosi, perché se ci si fa caso questi argomenti sono gli stessi da sempre, sono sempre gli stessi luoghi comuni di questo dibattito, e questo mi dispiace molto perché in realtà la scienza davvero sta riscrivendo la storia dell'evoluzione umana, la scienza reale, quella seria, che è piena di riscritture continue, di misteri, di cose che non sappiamo, però vanno raccontate con rispetto per i fatti e per la logica, e non invece solleticando suggestioni e ipotesi che non esistono nella letteratura di riferimento. E questo crea molta confusione in un pubblico di non esperti che non ha necessariamente gli strumenti per distinguere ciò che è scienza da ciò che invece non rispetta le regole dell'indagine scientifica. Marte, extraterrestri e adesso arrivano i mostri marini. Questa sera parleremo anche noi di mostri marini, affronteremo questo tema, esistono, non esistono? Cominceremo da un'inchiesta e da alcuni esperimenti, vedrete, suggestivi, che riguardano forse uno dei più famosi mostri ancora rimasti misteriosi. Chissà cosa è stato scoperto, chissà cosa troveremo questa sera. Cominciamo con Loch Ness. Sentiamo l'opinione di Giorgio Bardelli, zoologo presso il Museo di Storia Naturale di Milano. Uno degli scopi principali della zoologia è quello di scoprire e di descrivere le specie animali non ancora note alla scienza. E in effetti ogni giorno vengono descritte nuove specie. Per lo più si tratta di insetti o di altri invertebrati o comunque animali di piccole dimensioni, ma anche tra i mammiferi, ad esempio, il numero di specie note aumenta di anno in anno. E qualche volta si tratta anche di animali di grandi dimensioni. Poi c'è la criptozoologia, che è una disciplina che ha uno status particolare, indubbiamente affascinante. È una disciplina dei contorni sfumati tanto quanto i protagonisti delle sue indagini. E non si tratta soltanto del mostro di Loch Ness o dello Yeti, ma anche di una mole, una varietà di documenti tangibili, reali, ma non facilmente interpretabili. E il fascino indubbio della criptozoologia sta anche nel prolungare all'infinito le discussioni, i racconti e le ipotesi relativi agli esseri misteriosi dei quali si occupa. La cosa importante è mantenere ferma e netta la distinzione tra ciò che è reale conoscenza scientifica e ciò che non lo è. Purtroppo c'è chi mescola le due cose per esigenze di puro spettacolo, producendo così un grande danno, che è la diseducazione al senso critico e al pensiero scientifico, perché il lettore e il telespettatore non consapevoli, non preparati sulla materia, finiscono per pensare, purtroppo, che alcuni programmi televisivi siano dei programmi seri di divulgazione scientifica. Concludiamo con il complotto delle scie bianche lasciate in cielo dai jet. Questa sera vogliamo proprio cominciare da qualcosa di molto attuale e particolare. Chi di voi non ha mai visto in cielo delle scie, magari lasciate da aerei che viaggiano ad alta quota? Bene, ma non sembra che tutto sia così chiaro. Ci sono delle scie che si trovano nel cielo che disegnerebbero qualcosa di diverso, che farebbero pensare a qualcosa di diverso. Qualcuno forse vuole cambiare il clima in alcuni punti del pianeta? Ci sono delle altre finalità che ci sfuggono? Bene, questa sera cercheremo di affrontare questo tema. Non sarà facile, andremo nei meandri di mille misteri attuali. Un aereo lascia una scia quando si verificano queste tre condizioni: vola sopra gli 8000 metri, l'umidità dell'aria superiore al 70% e temperatura dell'aria inferiore ai 40 gradi centigradi sotto lo zero. Il commento di Paolo Attivissimo, giornalista di Computer Science e soprattutto studioso della disinformazione scientifica nei media. La cosa più semplice, ossia si chiede a un meteorologo, si scopre che è falso che si debbano rispettare queste tre condizioni, che sono state in realtà inventate di sana pianta facendo un collage di valori e cifre prese da siti di divulgazione scientifica e poi storpiate man mano dal passaparola della rete. L'altitudine infatti è irrilevante. Dove fa molto freddo, per esempio in Russia, gli aerei formano scie di condensazione persino a livello del suolo, è un fatto documentato anche fotograficamente. Inoltre non è vero che l'umidità relativa debba superare il 70%, se la temperatura è bassa, sotto i 50 gradi, alle quote degli aerei di linea questo succede quasi tutto l'anno, le scie di condensazione possono formarsi anche quando l'atmosfera ha un'umidità relativa zero, perché l'umidità necessaria è fornita dalla combustione del carburante dell'aereo. Non lo sanno in molti, ma lo scarico di un motore a getto moderno è in gran parte costituito da acqua. Insomma, la premessa è dilettantescamente sbagliata, quindi le conclusioni non possono che essere fasulle. Basta chiedere agli esperti, ai meteorologi, ai piloti di linea, ai chimici degli idrocarburi, per togliersi qualunque dubbio invece di inventarsi complotti. Se poi qualcuno vuole insinuare che piloti, meteorologi e chimici fanno parte della cospirazione, allora forse bisogna rivolgersi a un altro tipo di esperto, uno psicologo. E queste erano le opinioni di noi, The Möbius, su Voyager. Grazie a Stefano Morigi. Grazie a te. E a Chiara Ceci. Grazie. Siamo alla soluzione del quiz. Vi ricordate qual era la domanda? Qual è il pianeta del Sistema Solare che gira più lentamente intorno al Sole? La risposta giusta era la terza, Nettuno. Questo pianeta è stato scoperto nel 1846 e da quel momento, pensate, non è ancora riuscito a fare un giro completo intorno al Sole, perché ci mette 164,8 anni, insomma 165 anni a compiere questo giro. Viaggia piano, circa 3,4 miglia al secondo, 6 km al secondo. La Terra viaggia a 30 km al secondo. Siamo alla conclusione della puntata. Riflettete un poco, però, ve lo suggerisco, sulla risposta al quiz che avete appena sentito. Vi troverete con cose strane. Vi ho detto che Mercurio viaggia nello spazio a 6 km al secondo e la Terra a 30 km al secondo. Magari in questo momento siete lì sulla vostra auto a 70 km orari oppure a 120. Vi riesce di immaginare un oggetto di 12.000 km di diametro, la Terra appunto, che si muove a 108.000 km orari, perché questo vuol dire muoversi a 30 km al secondo, e questi sono i fenomeni nell'universo, che avvengono nell'universo. E poi pensate a cosa significa il vuoto, quando è veramente il vuoto, quello che c'è nello spazio. La Terra si muove a quella velocità e l'atmosfera che si porta appresso, e non c'è nulla che se la porti via, perché nello spazio c'è una molecola di qualcosa ogni metro cubo. Abbiamo davvero finito adesso. Vi ricordo l'indirizzo del nostro sito www.moebiusonline.eu e buona serata a tutti e a tutte. Ci sentiamo la prossima settimana.